Colo va a girare, mamma. Piccolo va a girare. Pippo e veniamo tu. Piccolo va a girare. Va a girare. Thank you. Paso que sí, paso que sí, amigo.